Che cosa hanno in comune i tre ragazzotti distinti che conversano garbatamente attorno a un computer portatile aperto e a dei volumi sul cui dorso spicca la magica parola manager? Sì, che anche l'osservatore meno dotato di spirito di deduzione può inferirne che sono aspiranti tali, probabilmente iscritti all'università Bocconi o ad altro ateneo di pari autorevolezza. E la mammina giovane e graziosa con due figlioletti già grandicelli, uno ancora alla fase del biberon, ma tanto carini tutti e tre. E le tre signore eleganti di mezza età che sfogliano regolarmente un albumino di foto, devono essere quelle delle loro vacanze, se ci fate un po' d'attenzione vi accorgerete che non sono andate in vacanza a Gabicce Mare, perché su una di quelle foto c'è abbastanza visibile l'immagine di una pagoda orientale, per cui almeno una fino in Thailandia o in Cina si è spinta. E le altre due non ne vedono l'ora. E che cos'è che hanno in comune questi 10 individui? È facile, è facilissimo: tutti e 10 hanno una seconda casa. E non nel che fossero figli del regime. No, tutti e 10 hanno una seconda casa, non nel senso di tanti concittadini che come prima casa devono accontentarsi della standa. Hanno una seconda casa in quanto sono clienti riveriti e soddisfatti di una catena di fast food che si vanta di essere la seconda casa di milioni di italiani. La loro effigie compare in manifesti e spot pubblicitari di detta organizzazione commerciale e accanto ai rispettivi ferri del mestiere, computer, volumi manageriali, biberon, albumino di foto in Thailandia, fanno bella mostra involucro di hamburger, di pollo impanato, di patatine e di quant'altro ben di Dio questa organizzazione elargisce. La pubblicità è pubblicità, questa in particolare è meno repellente di tante altre, anche se un po' enigmatica nel messaggio di fondo. Evidentemente si prefigge lo scopo di allargare l'immagine della clientela di quei locali, spiegando che non è obbligatorio per frequentarvi essere sedicenni periferici in ciubbotto imbottito di nylon o buzzurracci con l'aria losca e giaccone di pelle nera. E se questo è l'obiettivo dei responsabili dell'impresa, buon pro gli faccia. A me però quei manifesti mettono una gran malinconia. Vedete, io nutro in gran segreto, e ve lo confesso solo perché la Pasqua è vicina, io nutro una certa colpevole predilezione per i locali di fast food. Sarà per il loro aspetto americano, non so, io sono cresciuto nel dopoguerra e condivido con i miei coetanei l'ingenua convinzione di allora per cui l'America sia una specie di paese di ben godi da cui altro che miglioramenti al nostro stile di vita non possono giungere. Anche se naturalmente so riconoscere quanto di buono c'è nella vecchia cultura europea, e per esempio nei fast food in Europa si può ordinare la birra, in America no. Oppure sarà per avidità, perché sono ghiotto non dirò di hamburger, che ce ne sono di migliori altrove, ma di patatine sì, per quanto nocive siano. E tra i pochi progressi gastronomici del decennio c'è proprio quello rappresentato dalla possibilità di trovare in qualsiasi momento delle discrete patatine sempre pronte, appunto in qualsiasi fast food, senza la necessità di ordinarle con largo anticipo a trattori di fiducia o di organizzare costose escursioni oltre la frontiera francese. Al limite senza neanche ordinare un pasto completo. Ma soprattutto, se devo dirvi tutta la verità, soprattutto quei locali a me piacevano perché non ci si trovavano futuri manager bocconiani, mamme con bambini e signore eleganti riduci dalle vacanze in Thailandia. Perché la loro essenzialità funzionale aveva in sé qualcosa, ma come dire, qualcosa di disinvolto e sbrigativo che sembrava lontano le mille miglia dai vezzi e dalle moine della piccola e media borghesia, compresa quella americana che infatti a quanto ne sono i prototipi d'oltreoceano in quei locali non mette piede, e perché il basso prezzo delle consumazioni sembrava poter attirare altre e più simpatiche figure sociali. Illusioni, non bisogna mai scambiare la disinvoltura funzionale con una forma qualsiasi di libertà, neppure con quella forma altamente ambigua di libertà rappresentata dalla società dei consumi e supportata dalla sua struttura economica. Le organizzazioni commerciali sono organizzazioni commerciali, la loro funzionalità è funzionare la possibilità di vendere di più spendendo di meno, e la clientela se la cercano nelle categorie sociali in grado di esprimere una clientela, senza pagare le esigenze ideologiche dei frequentatori tradizionali. Unico problema è se la nuova clientela prende piede, io dove vado a cercarmele le patatine?